Lo stollo e la focarazza di Santa Caterina, una suggestiva espressione della religiosità popolare. Narra la tradizione che la giovane Caterina, gettata nella fornace ardente, ne sarebbe miracolosamente uscita illesa, sottoposta al supplizio della ruota dentata, infine decapitata. E Santa Caterina è il paese delle numerose contrade sparse sulla cima dei rilievi che dominano la valle del fiume Albegna, nel verde dei boschi di cerro e quercia alle falde del Monte Amiata. Qui ogni anno, nella sera del 24 novembre, teorie di persone di ogni età, provenienti anche dai paesi vicini, si muovono per rivivere l'antica tradizione dello stollo e della focarazza, legati al culto della patrona Santa Caterina delle Ruote o d'Alessandria. Intorno alla festa si intrecciano cicli di leggende e credenze popolari, dalla fantastica nascita del paese stesso all'edificazione dell'antica cappella della Santa nel luogo chiamato Greppo alle Forche, alla scomparsa della leggendaria vicina città di Ginevra inghiottita dal terreno. In questo scenario si svolge una delle più suggestive espressioni della religiosità popolare del territorio, con la gente raccolta intorno alle fiamme per sentirsi più vicina ed in contatto con la patrona, desiderosa di attestare la propria devozione e partecipare al rito. Metà pagana e metà religiosa, la festa, dalle origini assai incerte, è sopravvissuta senza pericolose interruzioni fino a noi. La tradizione non è documentata storicamente, ma gli anziani ricordano di averne avuto testimonianza orale fin dai loro antenati. L'insediamento umano di Santa Caterina è recente, secoli XVII e XVIII. Pertanto si può ricondurre a quei periodi la nascita del rito e della festa, oppure al secolo precedente, il XVI, in cui venne edificata la cappella della Santa. Presumibile semplice fuoco propiziatorio, divenuto poi anche gara con la nascita delle contrade. Durante gli anni delle due guerre mondiali furono le donne, rimaste sole a casa, a condurle. Il taglio del cerro e il fuoco. 24 novembre. Si lavora durante l'intera giornata per la preparazione della focarazza. Fin dalla mattina gli uomini designati sono al lavoro nel bosco, dal quale vengono raccolti rami di erica, lo scopo, da unire in fascine, e il grande cerro, l'albero sacro, simbolo della santa. Un tempo venivano portati in paese con l'aiuto di carri. Oggi questo avviene con moderni mezzi meccanici. Sulla sommità della collina che domina le contrade e la piccola cappella viene innalzato lo stollo, il tronco del cerro liberato dai rami, e tutto intorno fissate le fascine in forma di pagliaio. Giunge la sera e paesani e pellegrini gremiscono la cima sempre nebbiosa del poggio. Una processione muove dalla cappella fino alla sommità, dove il parroco benedice l'insieme sacrale. E il fuoco acceso in una esplosione di fiamme e di acclamazioni. Le fiamme fluttuanti si levano alte nel cielo e tingono di bagliori i volti, i campi e le siepi. Si avverte il significato rituale di ciò che si sta compiendo. La simbologia popolare collega lo stollo al corpo della santa e le fiamme al suo martirio. Il fuoco brucia piano piano le fascine e lascia intravedere lo stollo centrale avvolto da calore e fumo. Da questo momento gli uomini iniziano ad allontanare la brace formatasi saltandovi sopra con i piedi in un turbinio di faville. Prima ancora che le fiamme si placino completamente, questi cercano di strappare lo stollo dal terreno, uniti in uno sforzo comune, piegandolo, girandolo, sollevandolo, fino a riuscire nell'impresa. La lotta per il possesso. È il momento magico della festa e lo sforzo comune si trasforma in lotta individuale per la conquista del sacro legno. Ogni gruppo di uomini vuol portarlo nella propria contrada per guadagnarsi il prestigio e la protezione della santa. La lotta è ogni volta dura, poiché i contradaioli si fronteggiano con energia, spesso con violenza, lungo le piccole strade che uniscono le contrade, nei campi, passando sui muri, siepi, fili spinati, travolgendo ogni ostacolo. Lo stollo con il suo incredibile carico umano, composto da 30-40 elementi, corre nel buio della campagna accompagnato dalle grida dei sostenitori che lo seguono da vicino. La stanchezza fisica, le mosse improvvise e non ultimi gli accordi segreti tra contrade decidono la fine della lotta e lo stollo, dopo un'ultima corsa, viene alzato e appoggiato sulla facciata di una casa della contrada vincente. Da questo momento è intoccabile. Dopo tanta rivalità, la festa si trasforma e compaiono i cibi, rappresentati da biscotti, dolci, vino, un pasto comune offerto a tutti i presenti. Esplodono inevitabili commenti e le osservazioni sullo svolgimento della lotta gara. Qualcuno porterà per vari giorni i segni delle contusioni. Le contrade che compongono l'abitato sono il cecio, le campane, le querciolaie, case pereti, la posta, case rossi, case galli, la pianona, la croce, pilocco, i casini, alle quali si aggiungono piccoli gruppi di case isolate, quali case saloni, case momini e case sarti. Le contrade sono divise in due gruppi dal piccolo corso d'acqua detto il Borretto, derivante dalla sorgente della fonte della cupa. Così sono chiamati borrettai coloro che abitano oltre questo elemento, nella direzione di Vallerona. Questo motivo di contrasto è sempre presente e ricorrente nello svolgimento del rito. Il giorno successivo, il 25, la festa prosegue con l'aspetto sacro.